Chiuditi a riccio, non leggere più niente. Ma se proprio non ce la fai, ti consiglio Invernale di Dario Voltolini, La nave di Teseo. In apparenza, raccontare questo libro è molto semplice. C'è la scoperta della malattia, il decorso e poi la morte. In realtà c'è molto di più. A parlare è Dario, in prima persona, figlio di un macellaio che lavora presso un banco di sua proprietà in un mercato rionale. E scopre dopo un incidente sul lavoro con un coltello usato male un tumore da affrontare. Gli eventi procedono inesorabili: le rassicurazioni e le preoccupazioni di medici e famiglia, le cure in ospedali sempre più specializzati, la buona volontà e la speranza che via via si disperdono e portano alla conclusione inevitabile. La storia è un memoir ambientato nel passato attraverso un presente storico che riporta l'autore indietro con i ricordi personali e collettivi, rievocando luoghi e oggetti, modi di fare e di vivere di un'epoca che sembra lontanissima, di mezzo secolo fa. Sicuramente tra gli stratagemmi narrativi più efficaci c'è il parallelo tra il deterioramento del corpo nella malattia e l'opera del macellaio, che è tracciata attraverso descrizioni dettagliate. Da un lato, quindi, la propria carne, incisa dai medici e dalla malattia, dall'altra invece il proprio lavoro di incisore di carni altre, appunto un macellaio cosparso di sangue che lo porta sul grembiule come in una forma rituale, ma è sangue altro che però presto, nella realtà e nella metafora, si mescolerà al suo. Voltolini tratteggia una figura di padre novecentesco, quasi titanica, nei cui silenzi c'è il peso di un'eredità ricevuta a fatica. Ne parla con uno sguardo d'amore, ricorrendo talvolta a un tu confidenziale che fa sentire molto vicini alla vicenda. E se l'amore di questo figlio, nel tempo in cui è ambientata la storia, emerge più dai silenzi imparati che dalle parole, sembra invece di ritrovarlo intatto e forse rinnovato nelle parole scelte per raccontarlo molti anni dopo. È come se le storie avessero un tempo per emergere, come dei relitti perduti nel fondo del mare che un giorno come un altro decidono di rivelarsi, tornare manifestamente a galla, portando con sé tutto ciò che del passato ricorre nel tempo presente. Chiuditi a riccio, non leggere più niente. Ma se proprio non ce la fai, ti consiglio Vita mortale e immortale della bambina di Milano, di Domenico Starnone, Einaudi. Una nonna, serva di casa, un lampo della memoria, una bambina che abitava nel palazzo di fronte a quello dove viveva Starnone, un esame di glottologia. Questi sono i pochi tratti autobiografici da cui parte il libro. Un piccolo libro, lieve e denso, al cui centro c'è il tema della morte giocata, rappresentata, precocemente acquisita come dato inevitabile, oppure il tema dell'amore istantaneo, irragionevole, oppure il tema della memoria, della sua inattendibilità, o ancora l'inganno e l'autoinganno sui quali costruiamo la realtà, ritenendo di basarci su dati oggettivi, reali, incontrovertibili, ma di cui scopriamo più avanti l'erroneità, semplicemente perché non avevamo guardato dalla parte giusta, perché le nostre pregiudiziali non ci hanno consentito di vedere la realtà, o forse anche perché la realtà è sempre talmente complessa da non essere visibile davvero, non esistendo in senso oggettivo. Ma è ingiusto definire questo libro attraverso dei concetti, come è ingiusto leggerlo cercando di capire che cosa Starnone ci voglia dire, quale sia il suo messaggio. Starnone non ha nessun desiderio di insegnarci qualcosa, almeno non coscientemente. Starnone racconta un bambino che gioca in un cortile di Napoli abbagliato da una bambina bellissima e ricca, lui povero e con una nonna brutta. Racconta di uno studente che cerca di prendere l'ascensore sociale per arrivare all'altezza di quella bambina, assistito da una nonna serva di casa che non ha ultimato la seconda elementare, ma soprattutto parla di noi. Accende i nostri ricordi per il contatto con quelli reali o fittizi di Starnone. Vita mortale e immortale della bambina di Milano è un'allegra, tragica ed emozionante gita nella vita del narratore e nella nostra. Quando se ne termina la lettura, con dispiacere, non c'è altra soluzione che rileggerlo, tornare di tanto in tanto a esso come per ritrovare un caro amico la cui frequentazione è purtroppo più intermittente di quanto si vorrebbe. Triste tigre di Nei Cissino ne ripozza. Allora, è il caso di dirlo fin dal primo commento. Parlare di un libro così è difficile. Ci si sente catapultati dentro una sfera privata che per forza di cose si è fatta pubblica. Si ha contemporaneamente la voglia di gridare e di fare silenzio. di fronte allo stupro reiterato per anni e anni di una ragazzina dentro le mura della propria casa. La storia di Neji Sino è raccontata in prima persona dalla stessa protagonista. Prima di tutto, dunque, è una testimonianza di un'atrocità disumana che ha modificato drammaticamente il corso di almeno una vita. Ma sbaglia chi pensa di trovare nel libro, appena premiato con il premio Strega Europeo, una cronologia di eventi su cui esercitare quella morbosità che rende tutti spettatori privilegiati della vita degli altri, meglio se tragica. Perché il racconto della vicenda, per la scrittrice, è da un lato certamente il punto cardinale della propria vita successiva, e questo è inevitabile, ma dall'altro è anche un punto di partenza di una riflessione che sfiora la scrittura saggistica sui temi della violenza, della reazione al trauma dei soggetti vittime di stupro, dell'esercizio del potere manifestato attraverso la predazione sessuale, dello scambio fiduciario tra mondo adulto e infanzia, e di come la società civile affronta e accoglie, o meno, gli effetti di un caso di cronaca giudiziaria nella propria comunità. Il linguaggio con cui l'autrice sceglie di affrontare le conseguenze di uno stupro non è quello di una confessione, ma è pulito e diretto, privo di inibizione se necessario, ma solo quando è necessario. In questo modo, Sinnoh cerca di tracciare tutte le sensazioni, gli errori compiuti, le reazioni dei familiari, le successive ricerche, il senso di inadeguatezza che la porta a dubitare sull'utilizzo della prima persona. Come se la bambina stuprata dal proprio patrigno in ogni angolo di casa, la figlia che con il silenzio ha cercato di proteggere gli altri bambini della famiglia fino alla denuncia, poco dopo i 20 anni, non fosse la stessa persona della donna che è diventata, senza che vi sia stata redenzione. E su questo l'autrice è irremovibile. Dirà: quando si è vittime una volta, si è vittime sempre, e soprattutto si è vittime per sempre. Perché non si supera una vicenda del genere. Si può imparare a stare al mondo al meglio possibile, ma gli incubi resteranno a vivere nello stesso tempo e nello stesso luogo. Ovunque nel mondo si scelga di portare il proprio corpo, un corpo bambino si è fermato all'ultimo giorno della propria innocenza. Chiuditi a riccio, non leggere più niente. Se proprio non ce la fai, ti consiglio Ossessioni di Vernon Lee, edito da Alcatraz con la traduzione di Stefania Renzetti. Vernon Lee è lo pseudonimo di Violet Pagé, un'autrice quasi dimenticata perché è stata ostracizzata per le sue posizioni politiche, socialista, femminista, ma soprattutto pacifista nel periodo appena prima della Prima Guerra Mondiale, quindi le sue opere non se la sono passate tanto bene. E infatti anche non solo in italiano, ma anche in altre lingue, le sue opere non sono sempre facili da rintracciare. Ossessioni è una raccolta di 8 racconti scritte tra il 1886 e il 1896, in cui l'autrice gioca con le ossessioni e le manie di personaggi principalmente storici, realmente esistiti o frutto del folklore, soprattutto italiano. Infatti, l'autrice è appassionatissima dell'Italia, della sua storia e soprattutto dell'arte italiana, di cui in realtà è anche una grandissima studiosa. La particolarità del libro sta anche in questo. Queste presenze, questi fantasmi, queste ossessioni, strani personaggi, in realtà sono profondamente legati alla storia italiana e infatti molte delle opere vengono non solo ambientate in Italia, ma anche in periodi particolari come il 400, il 500, il 600, il 700 e le storie si intersecano in modo estremamente bello alla storia reale dell'Italia di quel periodo e soprattutto all'arte, facendoci così scoprire delle storie, delle leggende particolari, ma anche dei meravigliosi lavori artistici. Ad esempio, in uno dei racconti l'autrice parla di un baule riccamente decorato che si ispira ai trionfi di Petrarca. Quindi l'autrice fa anche grandissimo sfoggio di tutta la sua enorme cultura, andando a regalarci delle storie di fantasmi veramente atipiche. Questo è il mio consiglio e io vi auguro una bellissima estate. Cuoricini e cuoricine. Ciao! Chiuditi a riccio, non leggere più niente. Se proprio non ce la fai, sai che consiglio di viaggiare lontano, anche rimanendo fermo. Allora, il titolo di cui voglio parlare oggi è Assassino Amsterdam di Ian Boruma, della casa editrice Einaudi. E il sottotitolo è I limiti della tolleranza del caso Theo Van Gogh. Questo libro parla diciamo, prende spunto da questa vicenda di cronaca, ossia l'assassinio di un famoso regista olandese, Theo Van Gogh, per trattare più in generale i limiti della tolleranza verso l'Islam in Europa. Infatti, Theo Van Gogh aveva fatto scalpore per un cortometraggio chiamato Sottomissione, in cui si denunciavano le condizioni delle donne nell'Islam. Ed infatti, per questo motivo, è stato assassinato appunto da un ragazzo di origine, da un ragazzo islamico che ovviamente viveva in Olanda. Chiaramente, visto che siamo in Olanda, viene ucciso in bicicletta, così, giusto per dare un tocco più pittoresco. Il libro ovviamente parla solo all'inizio di questa vicenda e si sofferma poi più in generale sull'immigrazione in Olanda, visto che l'autore è olandese, anche se ha partecipato come coautore Mario Vargas Llosa. E si sofferma su altri fatti di cronaca, come ad esempio l'omicidio di Pim Fortuyn, un politico particolare, possiamo dire di centrodestra, ma lo scoprirete quando leggere il libro, scoprirete chi è questo personaggio, avvenuto 2 anni prima. Così come altre vicende e in generale varie statistiche su ciò che succede in Olanda e su quello che succede soprattutto tra la popolazione giovanile, riguardo il caso dell'Islam e della tolleranza.